ti conosce il toro né il fico, né i cavalli né le formiche di casa tua. Non ti conosce il bambino né la sera, perché tu sei morto per sempre. Non ti conosce il dorso della pietra, né il raso nero dove ti distruggi. Non ti conosce il tuo muto ricordo, perché tu sei morto per sempre. Verrà l'autunno con le conchiglie, uva di nebbia e monti aggruppati, ma nessuno vorrà guardare i tuoi occhi, perché tu sei morto per sempre. Perché tu sei morto per sempre, come tutti i morti della terra, come tutti i morti che si scordano in un mucchio di cani spenti. Nessuno ti conosce. No, ma io ti canto. Canto per dopo il tuo profilo e la tua grazia, la grande maturità della tua intelligenza, il tuo appetito di morte e il gusto della sua bocca, la tristezza che ebbe la tua coraggiosa allegria. Tarderà molto a nascere, se nasce, un andaluso così puro, così ricco d'avventura. Canto la sua eleganza con parole che gemono e ricordo una brezza triste tra gli ulivi.